Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Antispreco e delivery, due delle parole chiave delle istanze più avanzate nel mondo dei consumi. La prima storia che vi raccontiamo è una startup che ha appena lanciato un nuovo servizio, le riassume entrambe. Vale 24 miliardi di euro l'economia dell'usato in Italia, lo rileva l'osservatorio che ogni anno fotografa il settore. E poi dalle bolle di sapone per igienizzare le mani ai sanificatori domestici arrivano i nuovi prodotti dell'era post-Covid. Nonna? Sì? Sono un po' carina. Olive, tu sei la bambina più bella che esiste al mondo. Lo dici tanto per dire. No, io ti amo alla follia, non per il cervello o per il carattere che hai, ma perché sei bellissima. Sia fuori che dentro. Sapete che anche frutta e verdura per arrivare sul mercato devono superare veri e propri concorsi di bellezza. Anche piccoli difetti di forma, dimensione o colore comportano spesso lo spreco di questi prodotti. Per porre rimedio a questa situazione nasce Babacco Market, primo delivery antispreco di frutta e verdura, box di stagione su abbonamento che provengono da piccoli produttori, anche presidi Slow Food in tutta Italia, e garantiscono un risparmio fino al 30% rispetto al negozio. In più, sempre nella logica dell'economia circolare, i prodotti invenduti vengono donati a Recoup, l'associazione charity che combatte lo spreco alimentare e l'esclusione sociale. Ci racconta tutto Francesco Giberti, che è anche il fondatore di un'altra piattaforma antispreco, MyFoodie, offerte geolocalizzate di prodotti alimentari in scadenza nei supermercati. Babacco Market è un servizio in abbonamento con cui consegniamo a casa degli italiani tutta quella frutta e quella verdura che noi chiamiamo fuori dall'ordinario, cioè prodotti che non superano i concorsi di bellezza indetti dai canali tradizionali della grande distribuzione e che quindi rischiano di essere sprecati. Noi recuperiamo questi prodotti direttamente dai produttori, quindi produttori agricoli, e li consegniamo appunto ai nostri abbonati in una box. Quindi voi salvate, come dire, dallo spreco i prodotti cosiddetti brutti ma buoni, ecco, consentimi questo termine. In che proporzione escono dal circuito questi prodotti? Tieni conto che il 32% dello spreco alimentare italiano, che cuba circa l'1% del PIL, quindi 15 miliardi di euro, avviene proprio a livello di produzione agricola. Ovviamente le cause di questo spreco sono molte, e tra queste ci sono appunto i surplus produttivi e tutti quei prodotti che non rispettano appunto i canoni estetici della grande distribuzione. Quindi questi prodotti rischiano di essere sprecati anche se sono assolutamente qualitativamente buoni. E noi esattamente andiamo a recuperare questi prodotti, facciamo sì che non vengano sprecati e possano trovare uno sbocco commerciale. Come funziona nel dettaglio? Io vado sul sito e posso ordinare come e cosa? Tu vai sul sito, che è babaccomarket.com, e hai a disposizione la possibilità di scegliere due tipologie di box, una box per due persone e una box per tre o quattro persone. Puoi scegliere un abbonamento o settimanale o quindicinale, e poi noi ci occupiamo sia di selezionare i prodotti stagionali per ogni settimana, sia di portarti ovviamente a casa la box direttamente all'indirizzo che ci fornisci. Da dove arrivano i vostri prodotti? Quali sono i vostri canali di approvvigionamento? Arrivano tutti da produttori italiani, sono produttori di diverse dimensioni, quindi si va dal piccolo presidio Slow Food, con cui collaboriamo soprattutto per valorizzare, diciamo, i prodotti tipici e un po' dimenticati del nostro territorio, a produttori più grandi che lavorano con la grande distribuzione, che però appunto hanno quantità di sprechi molto elevati. Siamo operativi a Milano, su tutto il comune di Milano, stiamo crescendo molto velocemente, l'obiettivo ovviamente è quello di andare oltre Milano, per cui da settembre apriremo ad altre città, anche perché stiamo già ricevendo un sacco di richieste da parte degli utenti. Perché adesso che cosa sta cambiando nel vostro mondo? Diciamo che durante questo periodo di emergenza legato al coronavirus abbiamo notato che le modalità di approvvigionamento da parte delle famiglie italiane sta cambiando notevolmente, per cui sempre di più gli italiani si stanno appoggiando a servizi online che consegnino frutta, verdura, in generale la spesa a casa. È un trend importante che continuerà negli anni. Noi siamo inseriti all'interno di questo trend, però andando a valorizzare un certo tipo di prodotto che oggi non trova, diciamo, sbocco commerciale, che viene sprecato. E quindi siamo sempre coerenti con la nostra mission, che è quella di ridurre gli sprechi alimentari. Cambiamo argomento: sostenibilità, unicità e risparmio sono le tre leve che spingono l'economia dell'usato, secondo l'osservatorio Second Hand Economy promosso da Subito, piattaforma leader in Italia che come ogni anno fotografa il settore a partire dal valore generato dalla compravendita dell'usato. Giuseppe Pasceri. I dati di quest'anno del nostro osservatorio sulla Second Hand Economy fanno registrare, si riferiscono al 2019, un mercato che nel suo complessivo è arrivato a 24 miliardi di euro, che più o meno cuba l'1,3% del PIL nazionale, con una crescita di oltre un miliardo anno su anno, di cui il 70% di quel miliardo in più arriva proprio dall'online. Rimanendo sull'online, della cifra totale, circa il 45% è online, quindi 10 miliardi abbondanti sono sostanzialmente di questa economia dell'usato, provengono dal mondo online. Giusto per stimare anche in termini di utilizzo, noi sappiamo che un italiano su due ha comprato e venduto materiali di seconda mano e solo nel 2019 sono stati 21 milioni, quindi parecchie persone che si rivolgono a questo tipo e a questo stile di economia. Questa abitudine è più radicata presso quale fascia della popolazione? E questa è una domanda molto interessante, perché da un lato abbiamo segmenti particolarmente propensi all'acquisto e alla vendita online e sono principalmente le giovani famiglie, i boomer, invece sono molto molto attivi nella seconda economy, però per loro più o meno 50-50 tra l'online e l'offline. E poi abbiamo la famosa ormai generazione Z, dove oltre l'80% di questo segmento si rivolge all'online per comprare e vendere, tra l'altro con un fine e una modalità un pochino diversa. Per loro normalmente si tratta di vendere per capitalizzare e potersi poi permettere magari acquisti di altra merce, quindi proprio una economia circolare nel vero senso della parola per loro. L'emergenza sanitaria che stiamo attraversando e la conseguente emergenza economica stanno completamente trasformando le abitudini di consumo di tutti noi. Ecco, in questa contingenza il mercato dell'usato come si colloca? Se durante il cuore dell'emergenza sanitaria tutto era un po' fermo, ovviamente, giustamente, alla ripartenza questo settore sta vivendo una sorta di boom. Noi osserviamo, soprattutto in particolari categorie, un utilizzo ben più elevato del periodo pre-Covid, diciamo così, soprattutto sulla mobilità, sui servizi alla persona, per la casa. Uno dei principali driver per la vendita della seconda mano è il smettere il superfluo, quindi in un periodo di blocco come è stato quello recente, appunto, molte persone hanno guardato negli armadi, nelle cantine e hanno deciso di disfarsi del superfluo e al suo tempo guardando il suo mercato magari per comprare oggetti che rispondono ai nuovi bisogni. L'esempio delle biciclette è molto calzante, noi abbiamo notato un interesse sulla categoria veramente incredibile, parliamo del 300% di utilizzo rispetto al periodo precedente all'emergenza sanitaria. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, ripartiamo dalle nuove parole chiave post-Covid nel mondo dei consumi. Restate con noi. Ora rilassatevi e state un anno in posizione Y by Flex. È un'offerta così flessibile che la fanno anche a yoga. Mini Cooper Countryman nuova Baker Street Edition con 136 cavalli e tutto di serie. Fino al 30 giugno con finanziamento Y by Flex, tu a 140 euro al mese. Anticipo 3.330 euro. TAN 1,99, TAEG 3,49. E dopo un anno decidi se rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Scoprila in tutte le concessionarie Mini e su mini.it. Essere e avere. Focus sui trend. Sono entrate nuove parole chiave nel mondo dei consumi, parole come sanificazione, protezione, antivirus, antibatterico iniziano a contraddistinguere nuovi prodotti e servizi, nuove iniziative, campagne di comunicazione. Ecco i casi che lo testimoniano, li ha rintracciati per noi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Bentrovata a te e un saluto a tutti quanti. Partiamo dal capitolo igienizzante mani, c'è chi ci sta lavorando sia in termini di prodotto che di distribuzione. Partiamo da un concorso lanciato da un istituto di design di Londra, Bon Pass and Par, un concorso per lavorare sull'igienizzazione delle mani. Ecco, le categorie sono state diverse, ne cito soltanto tre con i progetti che hanno vinto. Per la categoria Industrial Design ha vinto il progetto The Bubble Party, quindi una macchina che soffia, che produce bolle di sapone igienizzanti, per cui l'elemento, diciamo, di pulizia profonda viene abbinato anche a un elemento ludico. L'altro progetto che vi segnalo per la categoria gesti e rituali è un campanello di casa. Un campanello di casa che si attiva nel momento in cui la persona, il visitatore, mette la mano sotto un dispenser di igienizzante per le mani. Nel momento in cui il dispenser rilascia la dose di igienizzante per le mani, si attiva anche il campanello di casa. Terza proposta per la categoria legata alla sostenibilità sono delle capsule con alghe marine, dei monodose di igienizzante per le mani dentro delle capsule che possono essere come delle grandi cicche da masticare, reso disponibile sia in blister, che comodamente uno può portarsi in borsa, nello zaino, oppure attraverso un distributore di gomme da masticare, quelle belle tonde, verde brillanti. Fra l'altro l'alga è compostabile, biologica e smaltibile. Quindi perfetta economia circolare nella concezione, assolutamente. Le immagini come sempre sono nella gallery sulla nostra pagina Facebook. Altro tema importante: come sanificare gli oggetti che ci accompagnano nelle nostre azioni quotidiane, dalle chiavi dell'auto al telefonino. Ecco che l'offerta si sta adeguando a questa nuova domanda. In questo caso riporto un paio di esempi di contenitori, di scatole magiche, diciamo. Partiamo da Parma Custom, un'azienda high-tech fondata già nel 1992, che di fatto è una fra le più innovative al mondo nei processi di digitalizzazione. E in queste ultime settimane ha lanciato Sanitize Box, che è un nuovo sistema di sanificazione ad ozono, utile sia per i propri oggetti, le chiavi, gli occhiali e altri oggetti che desideriamo sanificare, ma anche ideale per attività commerciali nell'ambito retail, per intenderci, per riporre pin pad, POS, lettori barcode, ma anche in ambito medico per tutti i dispositivi professionali, quindi ogni attività a contatto con il pubblico. Funziona a ozono. Ozono in questo momento è un po' la parola chiave, perché l'agente ossidante è più potente che si possa utilizzare in commercio. Loro hanno elaborato una tecnologia che permette di propagare l'azione uniformemente all'interno di questa scatola. Un altro progetto si chiama Box con tre O, quindi diciamo l'idea di una scatola al cubo cibo, quindi espandendo le possibilità di sanificazione in questo caso, dove possono essere inseriti i nostri prodotti, si collega alla presa elettrica e si attiva in pochi secondi e si realizza in meno di 15 minuti in totale sicurezza. In questo caso anche libri, documenti, giocattoli, piccoli pacchi sigillati, tessuti, la parte finale del ciclo di sanificazione serve ad abbattere le molecole di ozono, quindi il momento in cui si apre è assolutamente innocuo. Qualche anno fa Elon Musk dotò le sue Tesla di un filtro di sanificazione di qualità ospedaliera in grado di trattenere polline, batteri, virus e inquinamento. Lo chiamò filtro di difesa per attacchi batteriologici. Fu deriso in rete dai suoi detrattori. Ora l'industria dell'auto però gli dà in qualche modo ragione. Questi nuovi optional sono arrivati sul mercato. Sì, qui in Italia con la fase 2, ad esempio, Fiat ha lanciato un nuovo progetto, si chiama Defense Pack, sia per le 500 che per la Panda Hybrid. È composto da 3 accessori, un filtro che è capace di bloccare il 100% degli allergeni e anche il 98% dei batteri, un purificatore d'aria per gli interni che filtra le microparticelle, può essere anche utilizzato fuori dall'auto, e poi una lampada UV che è utile per igienizzare le superfici degli interni e anche in questo caso per gli oggetti da trasportare poi nella propria abitazione. Chiudiamo con la cosmesi. Pochi rossetti quest'anno, causa mascherina, l'attenzione è tutta sugli occhi, quindi mascara e ombretti, e poi grande attenzione alle mani che proprio a causa della continua igienizzazione vanno curate di più di prima. Questo caso finale testimonia proprio l'attenzione a questo trend, Sabrina. Sì, Lush ha proposto con i suoi cosmetici e prodotti naturali tre kit con nuovi e classici prodotti per le mani. Naturalmente il comune denominatore è la pulizia, quindi clean, e si abbinano ognuno a dei prodotti che con proprietà aromaterapiche o profumazioni dei vari ingredienti vegetali scelti sottolinea l'aspetto lenitivo, l'aspetto curativo, rinfrescante, per cui questi tre kit hanno questi nomi doppi: clean and calm, clean and fresh, clean and sweet. Gli ingredienti sono per esempio eucalipto e menta, o arancia dolce, oppure lavanda più rilassante, o camomilla. Ecco, quindi diciamo nell'abbinamento di tre prodotti che sono un sapone, una crema mani e un siero solido per le mani, quindi l'aspetto ancora più curativo e lenitivo per queste mani che sempre laviamo, igienizziamo e che hanno bisogno di un po' di cura, ecco, questi tre prodotti vengono proposti con le diverse profumazioni. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Grazie, a presto. Il consumautore. Tra gli insegnamenti che in qualche modo ci lascia in eredità l'emergenza c'è sicuramente l'urgenza di un ritorno in Italia delle produzioni, non solo di quelle legate alla crisi, vedi le mascherine. Reshoring è una delle parole chiave dell'ultimo rapporto della Commissione Colau, un termine tecnico che indica proprio il ritorno a casa di molte produzioni. Uno scenario in cui si inserisce anche una sensibilità, una richiesta più solida da parte dei consumatori sull'italianità dei prodotti. Partiamo da qui per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Buonasera, ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa. Sì, molto interessante ed è bello anche partire, diciamo, dalla strada italiana alla quarantena, alla pandemia. È interessante capire come abbiamo reagito. Su questo segnalo questa bella raccolta di storie, si chiama Diario Italiano, storie di resistenza quotidiana al tempo del coronavirus, che è curato da Maria Serena Natale, che sono proprio le storie, i racconti degli italiani in casa, cosa hanno fatto, cosa hanno desiderato. E qui emerge un altro elemento insieme al reshoring, che è più aziendale, e che è la capacità che abbiamo avuto di interpretare le tecnologie digitali. Per esempio le videochiamate, le conversazioni. Cioè non siamo rimasti schiavi dell'algoritmo, ma abbiamo trovato questa strada molto relazionale, un po' come se avessimo trasferito i bar online, no? Utilizzando le videochiamate, il digitale. E questa è una cosa molto italiana che mi piaceva segnalare. Un'altra delle parole chiave che abbiamo usato in questi mesi, Francesco, è sicuramente la prossimità. Abbiamo visto vincere come chiave nelle tante storie di resistenza dai negozi di quartiere che si sono attivati anche a livello digitale ai nuovi servizi di condominio fino alla solidarietà tra vicini. L'Italia è da sempre un paese di prossimità. Cioè da noi il condominio, il quartiere, la città in cui viviamo, addirittura la provincia, no? Sono spesso motivo di orgoglio. E allora cos'è avvenuto? Che abbiamo recuperato le relazioni che già erano forti, le abbiamo anche riscoperte. Speriamo anche che questo sia un insegnamento che possiamo portarci nel futuro, perché se l'Italia sarà in grado di reagire in modo positivo nei prossimi mesi, starà proprio puntando sugli elementi forti che ci caratterizzano, cercando invece di affrontare le nostre debolezze, che sono questa diffidenza per la tecnologia e spesso anche questa mancanza di rigore che forse il Covid un pochino ci ha imposto. Come le aziende possono sfruttare in modo intelligente questa rinnovata voglia di italianità? Io credo che le aziende debbano davvero recuperare questa familiarità con i loro clienti. Sicuramente quello che oggi entra in crisi è l'evento spettacolare, la campagna particolarmente provocatoria, trasgressiva. Io credo che si debba invece tornare a un tono familiare, intelligente, non solo rassicurante, anche stimolante, però davvero far sentire ai propri clienti, alla propria comunità un calore che alla fine siamo sempre lì, è il calore umano dell'italianità. Se riusciamo a fare questo, credo che anche i prodotti italiani riusciranno a trasferire questo calore e poi piano piano cercheremo di riconquistare il mondo, perché è chiaro che l'export in questo momento continua a soffrire. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.